io, scusate, veramente, saluto il circolare a tutti. Di nuovo, a te Mike Salvatore, buonasera, benissimo ascoltato, dopo un po' di tempo. Pappa, non c'è problema, sapete, ci mancherebbe. Guarda che siamo bene calciofini, quello lì è più importante di tutto. Noi sì, anche a me mi ha fatto uscire in testa la fare il simile, sicuramente c'era nel palazzo. Comunque, il fatto delle frequenze, vabbè, una cosa importante, perché se ce l'hai possibilità, fammela avere anche a me quella tabella, oppure dimmi dove l'hai scaricata. L'ho trovato, ce l'avevo, deve essere da tanto tempo, ieri stavo sistemando un cassetto e ho trovato questa roba, c'è scritto tutto qua, anche le potenze che possono usare, non sai francesi che potenza possono usare? Piccolo molto basso, forse 2 watt mi sembra. Allora, in Francia tu puoi utilizzare 1 watt in AM e 4 watt in SSB in banda laterale e 4 watt in FM, mentre in America, Australia, Canada e Nuova Zelanda puoi usare 4 watt in AM e 12 watt in banda laterale. In Giappone hanno solo 8 canali e possono usare 5 watt su tutti i modi di emissione. Aspettiamo un watt, vabbè, dai, quelle che sentiamo noi non ci hanno escono con un watt, senz'altro, però beh, non è possibile, dal centro della Francia, da lì che ne darei con un watt. È difficile collegare i francesi, ti ricordo che lo stavo dicendo l'altro giorno, è molto difficile, però quelli pochi che colleghi non ci hanno un watt, senz'altro, anche loro fanno i furbi. Ok, riprendi Giuseppe. No, Giuseppe, ma poi guarda un'altra cosa, i canali giapponesi di CB, il canale 1 è 26968 e l'ultimo canale sono spaziati diversamente, cioè 26968, 26967 canale 2, 27040, 27080, 27088, 27112, 27120 e 27144, c'hanno tutti i canali confusionati, e sono 8 canali c'hanno i giapponesi, non lo sapevo questo. Non ho mai sentito in radio giapponese, francamente non ho mai sentito. Riprendi Falchetto, vabbè. No, era qua poco fa, non volevo che si fosse allontanato anche lui. Cosa è andato a mangiare Giuseppe? Avanti, salve, riprendi. Capo, un attimino che mi collego le cuffie senza fini a proposito. Un attimino che così vediamo di fare un attimo una regolazione, dopo. Se mi posso rubare un attimino di tempo. Ma comunque a proposito dei calciofi, domenica c'è la stagione del calciofa unica, guarda la magna gratis, o se non ti manca delle baghe. Ma domenica sera? Sì, domenica sera. Oggi, ci sono capo una volta, si sta bene, tu ci vai, vabbè. Non lo so, ci sto pensando, cacchio, domenica c'è il Gran Premio, a luna però il Gran Premio, cacchio, mi sembra difficile che riesca a vederlo dall'inizio. Del mattino lì? No, a luna alle 13, perché c'è una fase notturna. Perché lasciamo vedere, scusa, non ce la fai. Sono a portatore, i bambini giocano a mezzogiorno meno un quarto, non faccio il tempo. Comunque c'è qualcuno chiamando Roberto, magari, Mondi, tu sì. Mondi, il segnale è 7, però c'è in mezzo ai disturbi, c'è un medio di propagazione, non capisco quello che stai dicendo. Cosa hai detto, Roberto Mondi? Guarda, se vuoi, magari, se puoi andare, confermami, se vogliamo andare possiamo andare in FM, così magari ti ascolta anche Salvatore. Puoi andare in FM? Hai detto di no, così, Mondi? No, c'ho troppo QRM, ce l'ho molto forte, poi ti stai portando un disturbo appresso, Mondi. Guarda se puoi sollevarti un pochettino. Non capisco cosa hai detto. Ti stai portando appresso un disturbo, Mondi. Scusa un attimino, passa un attimino in FM, Mondi, così ti ascolto e mi dici quello che hai detto, che non ho capito. Sì, dimmi, Mondi. Ok, vai. Ah, puoi andare in FM? Io ti ascolto perfettamente. Salvato, sì. Passando. Così lo tiro fuori bene perché non capisco quello che stava dicendo, ci andiamo tutti in FM. Ma vabbè, non su questo canale non sai che usano tanti scopi, spostiamoci su qualche altra parte. Andiamo sul 30? E facciamo 30 oppure quello che. Fai il 30, come il 30, dammi la frequenza però che non ce l'ho. sabato. Ok, dai, 27205, questa è greca. Prova, attenzione, Roberto, se ci sei. Attenzione, Roberto, sei tu? Io ci sono. Aspetta, non passo però, perché sennò gli smitter li sfasciamo. Vediamo, Salvedio, ci sei? Positivo. Beh, io non posso levare lo stesso vantaggio vostro, ma spero di farmi sentire lo stesso in FM, cambio. Ma c'è a fondo scala, ma va benissimo, non so, vediamo un po' sulla coppia anch'io. L'amico d'Alghero? Quando ci sei? No, vabbè, sì, no. No, stavo tornando qua. Sì, ci sono, Roberto. Santiago, no, poi sì, qua. Ti ascolto perfettamente. Ti ha chiesto Salvatore se lo occupi. Avanti Salvatore per Mondino. E poi proviamo Salvedio. Capo, buonasera Mondino. Se mi colpi, mi sollevo perché mi sono abbassato un po', non so se mi stai copiando. È sentito Mondino? No, no, in mezzo al QRM. No, è strano però in FM. Ho QRM a 5-6. E lui lo sente in mezzo al QRM, però non riesco a capire quello che si dice. Capo, aspetta che mi sollevo. Adesso Mondino, mi senti? E adesso hai passato le QRM. Ciao Salvatore, salutori. Vabbè, saluti erano sempre, ovviamente, dati, anche se non ti sentivo. Dimmi Salvatore. No, no, perfetto, anch'io ti copio, salutoni, contraccambiati, ti copio abbastanza bene. No, io con Reme in FM non ne ho, questa radio è abbastanza silenziosa. Sabi, vai tu che per l'amico Mondino. Buonasera Mondino, mi hai ascoltato, Sabi della Lugara, al Monte Rosello, la città di Sassari. Speriamo che mi ascolti, vediamo se posso riscaldare qualche ora di più. Mi sa che così siamo al massimo. Mondino, avanti. Mi hai sentito la Salvedio? Sì, la Salvedio, no, no. È sotto il QRM. E ho sentito il Salvatore, sì, ma sono passato il QRM. No, Salvedio mi dispiace. Vabbè, dipende da me, non dipende da loro. Hai sentito Salvedio? No, un attimo, sto parlando con un familiare qua a casa, cosa ha detto? Purtroppo cioè, non ti ascolta, non so se tu riesci ad ascoltarlo, lui però il problema è suo, non ha antenna, non può fare più di tanto, c'è un'antenna piccola, al contrario tuo. E a me mi tiri fuori, non dire. Vai, tu fai, no, no, no, non più di tanto. Comunque ti hanno sovramodulato, chi è che ha parlato? Avanti, chi è? Buonasera, Domenico, qua a Barbetta, sempre per chi c'è di Repomparle. Ciao Roberto. Mondi, siamo in FM. Altro domenico mi sembra. In partenza per le bombarde. Però in AM, dovresti salire in FM. E comunque arriva molto precario qua. Domenico, siamo in FM. Perché io almeno sono abbastanza aperto. Arrivo anche il segnale alle 10, ma ci sono problemi. Spero che non mi ascolti, io lo sento più o più, la verità mi arriva. Scusate un attimo, Domenico ci sei? Cappa, ci sono. Cacchio, 966 qua, Domenico, dove sei? Qua, ho passato l'ufficio delle entrate, dai, passato l'ufficio delle entrate. Ah, quello è troppo forte, dai, non c'è problema. Comunque c'è anche Mondino, non so se riesci a tirarlo fuori, lo senti Mondino? Avanti Mondino per Domenico. No, lo saluto, no. Io sento te e poi a Salvatore. E gli altri Brecco? Avanti Roberto, c'è stato un Brecco, vediamo che è. Avanti, buonasera. Buonasera a Corriere a tutti, già vi do più da questa parte. Avanti Roberto, di nuovo puoi far girare. Ehi Gianni, ripetiamo, c'è Domenico che sta andando, 131 si sta incamminando verso le gallerie, poi c'è Salvatore da Ottava, Saverio, Mondino Valghero, ti rilascio per il più lontano. Avanti Mondino, sei sentito a Gianni. No ragazzi, Gianni chi? Doppio rumbo. No, non lo sento, non lo volevo sentire. No, non lo sento, comunque me lo saluti. Allora, probabilmente ora sei già. Comunque detto, ti saluta e non ti sente. Per il momento siete solo a me e a Salvatore. Avanti Salvatore di nuovo. Kappa, buonasera Gianni, mi hai sentito? Buonasera Domenico, che in queste greche ha perso la città più bella della Sardegna. Ok, perfetto, un segnale molto basso, però la radio lo tiro fuori a Mondino, lo cuffio. Non capisco questa mia negatività verso Alghero, Robè. Ogni volta mi rodo le mani e dico, adesso domani la piazzo, ma la piazzo questa volta, guarda, metto di proposito la piazza quella roba. E Charlie, vabbè, io già ho l'altra pronta a piazzare, quando ho 5 minuti di tempo già piazzo anch'io l'altra, vediamo se facciamo scintille, dai. No, Mondino qua, in FM è una telefonata, perfetto, Santiago Nuovo è Radio 5, perfetta. Poco fa era segnale di 7 in AM, però si portava presso un disturbo, non riuscivo a capire quello che diceva. Di nuovo Mondino, avanti. Perfetta, niente da dire, al contrario di Saverio che in FM non mi piace, è molto cupa. La radio tua è perfetta, ha detto, ma il capo sta usando. Aspetta che attacco. Allora, così come sono col processore, così com'è? Molto più forte, sempre ottima, però più forte. Allora mi allontano, il microfono ce l'ho distante, il microfono fa male, l'MC60 è conservato. Ah, non stai usando le cose. Dimmi un po', io come arrivo di radio? Non parliamo di segnale, è giusta, forte, normale, cosa mi dici? Aspetto da prima, cazzo. Arrivi Santiago 7, Radio 4, non ti dico altro. No, perché poco fa non me lo stanno dicendo, ti hanno sovramodulato. No, solo per capirmi, basta. Facciamo riprendere a Saverio, avanti Saverio. Ora se non lo dici, io voglio migliorare qua, capito? Guarda, si è schiarito. Abbiamo modificato i toni, per me sei più chiara. Salve, ti sento molto citofonico, molto bassa di radio, non lo so, non sei tu. In FM probabilmente quella parata non va bene. In FM andavi benissimo, in FM sei molto cupo, non lo so per quale motivo, ma l'ho notato molti qua in frequenza, quando attaccano altri baracchini, in FM vanno benissimo, in FM non rendono. Mentre questi qua che stiamo utilizzando noi, in FM è ancora meglio. Vabbè, quello se fa il dubbio, però questa radio è sempre andata benissimo in FM, vediamo un po'. Ora, 1, 2, 3, aspetta, 1, 2, 3, ma si è schiarito, considera che sono una settimana a casa con influenza, e voce non ce l'è. No, ma sei molto basso di livello, e poi molta cupa. Diciamo la radio è 5, si capisce benissimo, però sei molto cupo, cioè solo tonalità media e il livello è basso. Ma che microfono sta utilizzando? Un microfono al tavolo, la Lirire, solo che usa un MC60, non usa parecchio. No, ci mancherebbe, lo sto dicendo ancora. Vabbè, non c'è problema, non ti spaventare, io ho dato soltanto un'opinione, basta. Allora, ricordate che ti fai sentire, è chiaro. Brutto male se non si comprende quello che dici, ma capiamo benissimo quello che dici. Un attimino di nuovo a Mondino e poi Salvatore e facciamo girare a Gianni. Avanti di nuovo a Mondino. Oh, vabbè, scusami. Vieni Mondino. No, mi sono accorto che ero con due Vatican. Beh, a come mi senti? Adesso io c'avevo l'attenuatore perché ci sapevo troppo forte, ti ascoltavo perfettamente con l'attenuatore inserito, figurati, ma può volettarsi. Va bene, ciao, Robè, mi fai una cortesia? Ci dimmi, buon dì. Ah, mi saluti tutti quanti, ovviamente anche te, incluso, ci sentiamo. Va bene, ben sentito Mondi, quando vuoi siamo sempre qua a disposizione. Comunque Mondino sta salutando tutti, cordialità a tutti da parte di Mondino. Ok, ti saluto io, ricambio io da parte di Mondino. Ciao Mondi, a risentirci alle prossime. Avanti, Salvatore per far girare a Gianni. Vabbè, mi approfitto, saluto a Mondino e ci sentiamo alle prossime. Adesso ci abbassiamo tutti, siamo vicini, perché adesso devo stare con questo testino, con l'attenuatore, togliendo e mettendo. Ok, ci state? Mi riprendi. Black. Dai, saluta Mondino. Comunque, è stranissimo, è che Marco Catena saluto prima di tutto a Gianni Lupirullo. Saluto di aver ascoltato, dai. Facciamo entrare un attimino da Gianni, che probabilmente è arrivato a casa. Avanti Gianni. Ma sono fermo io, sono sotto casa, fermo là. Ciao, salve anche a te, ben sentito. E ciao, chiamo un Dino, anche se non mi sente, lo saluto lo stesso, là. Ben sentito. C'è qualcuno che sta dando dei colpi importanti, forse vuole entrare. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare, là. E sono di uno di Black Canyon, mi sentite? Ah, e tu Luca, scusa, sentivo qualcosa, pensavo fosse Salvatore, il tocco del 10 del 60 sembrava Salvatore. No, pensavo lo stavo uscendo, ecco perché, siccome lo smitter non si muove, e non capivo, ecco perché fischiavo, infatti non si muove lo smitter. Comunque, buonasera a tutti. Però salutiamo il mio, se c'era ancora, se mi ascolta, perché lo sentivo, insomma, discretamente. No, già è buono. Anche Luca, una telefonata perfetta, bellissima. Anche l'FM sono micidiali questi apparati, così Salvatore. Già rendono l'AM, ma l'FM c'è lì in alta fredda, c'è anche a me sempre. Ma passiamoci, se no cos'è con l'attenuatore? Aspetta che, infatti, quanto vado, sto uscendo un quarto e mezzo, mi sentite? Sì. Ciao, no. Salve, ci sei ancora? Positivo, ci sono ancora, se mi ascoltate, dai. Ma Moretta, anche tu non scherzi, a pallina sta arrivando. Ti rilancio il più lontano, Salvatore, vediamo se ti ascolta lui. Salvatore, ascolta Domenico. Sì, l'ascolto. Aspetta, forse mi sono abbassato troppo, eccolo qua. Sì, l'ascolto, il radio, il segnale non lo guardate, il radio l'ascolto, lo tiro ancora fuori. Ma adesso che mi sono abbassato magari non mi ascolta più, vabbè. Ok, facciamo girare, vediamo un po' che è stato per l'ultimo. Luca, salutoni, buonasera. Ciao Salvatore, aspetta un attimo che abbassa anch'io qua. Aspetta. No, 5 watt. Che 5 watt arrivi a fondo scala attenuato. Cioè, non ho c'ho valuta da te. È sempre fondo scala. Tu sei 9,40 attenuato. Salvatore è 9. Cosa fai a 9,50? Vai Salvi, fa passaggio. Parlo un po'. Ola. Quello sulla DB. Sulla DB attenuato, Arrivo, non sto arrivando, Roberto. Alla fondo scala si è trattato le 9,50 attenuato. Io se presente sto uscendo con meno di un watt e mezzo, perché sono meno, un po' più su dell'uno e meno del 2. Vabbè, io le apro tutti quelli dell'apparecchio, una trentina, dai. Ma ti puoi abbassare tu sapevi con quel baracchino? Positivo, possiamo scendere fino a nulla. No, nulla, cambio. Noi siamo a Dunda, no, sempre su fondo scala, sì. Così c'ho numero 2 watt, dai. Qua invece da 9,60 fondo scala, quando ti sei attenuato, quando ti sei sollevato, sei arrivato a 9,20, salve. Benissimo a Salvatore, a Roberto per una telefonata, a te è un po' forse magari perché si è influenzato, non so, un po' effetto camera, no? Confermate? Sì, proviamo a passare. 1, 2, 3, guarda un po', ci ha migliorato la radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diciamo non è bella spinta, salve. Per esempio loro, vabbè, stiamo utilizzando tutte le la stessa marca dell'apparecchio, lo stesso microfono e mi sentono benissimo come una telefonata. Non so, tu me lo senti a video? Vabbè, vai. No, io ho già detto, è basso di livello e poi molto cupo, tutto citofonico, radio chiara, niente da dire, però molto basso di livello e poi mi mancano completamente le tonalità acute, c'è solo media e basta. Perché anche anni l'ho ascoltato molto meglio. Avanti già di nuovo. Ehi, volevo salutare a Luca perché non ho avuto modo di salutarlo, dai. Ciao Luca, ben sentito anche a te. Non so da cosa dipenda, ma anche io lo sento un po'... No, ho la radio chiusa, rimane chiusa come radio. Ma Ah, lo dico io, la radio è spinta in AM, molto spinta in AM e meno spinta in FM. Comunque, ciao Gianni, anche a te, dai, scusa, se ho salutato prima. Va bene, niente, dai, io stavo cercando, chiamando sul 5, sul 10, scusate, questo qua non mi prende, colpi. E poi girando con la sintonia continua, ho visto che siete a 305, questo boh. Allora ho messo normali, canali normali, e l'ho trovato qua. Se no stavo sempre là, io l'ascolto. Aspettate un attimino se c'è ancora Domenico che stava chiamando. Domenico, sì? Ti ha lanciato Domenico, la bomboletta sì, bella pulita la radio. Attenuato, vai Domenico, mi senti? Guarda almeno me lo senti. Guarda, ripetate sta casa, guarda, Domenico, io sto dicendo, non ci credi, meno di 2 watt, 1 watt e mezzo. Guarda adesso se mi ascolti meglio. Adesso ho aumentato meglio, dai, ho aumentato meglio. Sotto perfettamente, guarda, se mi affianco a me lo stesso come Luca, c'è le 7, però la radio è perfetta a 5. E quei barattini vanno bene anche in FM quando sono toccati, dai. E allora lo metto. No, no, ti sento sempre. Aspetta, chi è che ha chiamato? Avanti l'altro. Chi è che ha chiamato? Avanti. No, forse sono io che l'ho tocco il portante. Di medio bassi, però chiusa completamente l'emissione, non mi piace. E poi c'è una specie di riverbero sotto, ma la stai mettendo tu? È una puntina che ho dato a vedere se cambiamo qualcosa. Ma spero per niente. Ora. Salve, ti interessa a voi, ti occupi questo, lo sto vedendo. Ciao Roberto. Avevano salvato il baracchino, che lo vuole invece. Che baracchino? A quanto diglielo? Il Galaxy, il Pluto sto vendendo. Luca, se qualcuno senti, con 2 microfoni lo sto dando. Tutti e 2 amplificati, quello da tavola e quello del palmare. Beh, vabbè, quanto ne vuoi? Vabbè, parliamo, la radio è nuova, vedere, c'è ancora la scatola, c'è ancora, e i microfoni lo stesso sono nuovi. A chi è interessato ci metto in contatto e ne parliamo. E vabbè, potrei essere interessato anche io, Salvatore, non è il problema. No, passi in officina, ne parliamo. Ah, vabbè, quando passi in officina, c'è una buona scuola alle 2, passi dalle 2, dalle 8 alle 2. E il mio unico pensiero è arrivare a casa e riposare, mangiare prima di tutto, poi uscire, cioè, ti lavi e poi ti metti il pigiama e buonanotte. Cioè, vediamo, non so se c'è il tuo numero ancora, bro. Non lo so. Cioè, io ti lascio il mio numero e mi fai una bassa, mi fai sapere. No, negativo, il tuo numero io ce l'ho invece, Luca. No, il mio sicuramente non ce l'ho perché l'abbiamo cambiato. Io il tuo numero ce l'ho. Domani ti chiamo, dai, verso che la... quando stai lavorando ti posso chiamare? Vabbè, metto un lo puoi fare, dai. Tanto stiamo viaggiando con furgone. Vedi un po' tu, verso le... 10:30, boh. Anche le 11 va bene. Oppure prima, vedi un po', dai. No, va bene verso le 11, dai, ti chiamo 10:30, ti chiamo, là. Così ne parliamo al telefono. Ok, va bene, Gianni, ci sei? Io sono sempre qua, che vi sto ascoltando. Ehi, a Salvatore, come mi senti in radio a me invece? Io ti sento basso, sento il segnalone, c'è un segnalone, ma ti sento basso. Solleva, non ti puoi sollevare un po' del radio? Vado a vedere adesso se vado meglio di radio. il segnale si è a fondo scala, guarda qua, a fondo scala completamente, la radio che sento un po' bassa, ma forse che sia io sia, Robert, tu come lo senti? Beh, anche lui è un po' cupo già, probabilmente con le radio prendono, non so la sta utilizzando in FM purtroppo, vedo un pochettino, anche tu sei cupo, se si abbassa parecchio il livello del segnale, ma è un microfono amplificato già. Normale. Ah vabbè, se è normale, come ho detto, però si accupisce la radio, ti toglie un vedi, non come San Video, tu sei un po' meglio, però non è la stessa cosa di ascoltarti in AM, sicuramente perdete molti colpi. Gianni, cosa stai usando? Il Galaxy? No, negativo, dalla 48 BSX. Ah, ok, perché non ti usi l'altro, scusa, che va meglio? Perché è macchina, Galaxy, non ci sta. Ah, in macchina sì, guarda, convinto che è stato in fissa già. Sono in macchina, sono fermo vicino a casa, Ah, beh, se tu ti metti in macchina quello che sto vendendo io, quello va bene in macchina, il brutto. Ah, è come avere quello che c'è in casa in macchina. Lo so, ma ne ho troppi di apparati. Vanno bene come sono io. E fa il conto, sono A, B, C, D, E, F per 4, per 40. Non ho niente di questa, cioè, dovrebbe arrivare sulla soglia del 30. Sì, sì, sì, ci arriva. No, no, ma io, va bene, va, è che lo sto dando via perché mi sto prendendo una radio un po' più grande. E quindi sto riaccumulando qualche soldo in più perché non voglio aggiungere molto di tasca a Salvezza. È positivo. Ah, attimino, se c'è Domenico, aspetta, mi faccio sentire anch'io. Domenico, ci sei? Dove sei, Domenico? Ti sento di radio, però non ho capito esattamente il posto. Hai superato coso? Il video di Anna l'hai superato? Ma ti sto perdendo. Va bene, dai. Se mi ascolti ancora, infatti non riesco quasi più a sentirti. Sei in mezzo al QRM, si sente appena appena. Ma niente, avanti, se c'è qualche punto migliore, però è inutile stare a aspettare, sono monopolizzato. Comunque ti saluto, buon viaggio e buon tutto per domani. Ciao ciao. Anche da parte degli altri, non so se ti avranno ascoltato. Chi l'ha sentito si faccia avanti. Ti sei sentito Domenico? Ma ragazzi, io non lo compro più. Passo. Robè, no, io lo sento una voce che sta parlando in diciamo in mezzo al QRM, però non l'ho sentito. Oh Robè, questo è ho messo l'MC85 adesso, differenza c'è? Aspetta, fammi ritornare a 2 watt, adesso non vado in mezzo. No, ci sento benissimo, non ho visto i confronti con l'altro, se mi fai sentire prima uno o quell'altro lo vediamo. Allora, questo è l'MC85, senza il compressore, senza il processore inserito, è messo il compressore che c'è dentro il microfono. Fammelo di nuovo, due passaggi, uno e due veloci. Allora, questo è l'MC85, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso attacco l'MC60, memorizzati questo adesso. No, no, col processore è senza, fammelo sentire questo. Questo è senza processore. Ecco qua, adesso ho inserito il processore del K. Vedete se c'è la musica. Dai, fammi sentire l'altro. Da. Luca, non c'è più. Ah, niente. Vabbè. Cos'è il 60, Salvatore? Sì, questo è il 60 senza il processore. Ecco, adesso c'è il processore inserito. 1, 2, 3, prova. Sabato è meglio l'85, anche se questa è bellissima, perfetta, però l'85 a livello di prestazioni è superiore, almeno qua in FM, secondo me è migliore, e spinge un pochettino di più, e c'è un pochettino di più di tonalità acute, mentre il 60 ti dà un po' più di tonalità medie. Mi sa, poi c'ho un po' il 85, così lo spolveriamo. Allora, vediamo un po', sì. Ecco qua, ho aumentato un po' il mic livello, perché poi non capisco come bisogna regolarli questi livelli, mentre che nel 60 non c'è niente, questo c'è la possibilità di fare delle regolazioni o robe. E adesso ti sei, ma questo cos'è, l'85 o il 60? Questo è l'85. Ma l'hai rimesso di nuovo l'85? Sì, ho rimesso l'85, adesso sto usando l'85. Ma che sei alzato anche un po' il livello, ma sono elevato il livello. Sì, leggermente, mi abbasso? No, alza appena un pelusino. Guarda, adesso l'ho sollevato, diciamo sono a tre quarti. Così è perfetto, non tocca niente, è una bomba. Sì, perfetto, guarda, ha salvato alta frequenza in radio, bellissima radio, complimenti. Vabbè, meglio così, adesso lo uso un po', ma così mettiamo, no, gli togliamo la polvere. Ok, allora già, non lo puoi fare l'affare? No, io negativo, vai, non mi interessa. Già, è un bel apparecchio, ma a me per il momento non interessa. Vabbè, dai, io adesso vi saluto, ripeto la casa che sono arrivato, eh? Ci sentiamo, apri, magari ripeto la casa dell'apparecchio di casa. Aspetta, già, non chiudere un attimo. Certo, già tanti anni, ci sei? Sì, sono. No, come mi ascolti tu adesso, considerando che sono un watt e mezzo, direi dove sei tu? Benissimo. No, ma la radio 5 è perfetta o problemi? No, no, è perfetta. La radio è perfetta, 7-9. Figurati, lo vuoi, cacca, un watt e mezzo sto utilizzando. Per cui in città, molte volte, se vogliamo starcene tranquilli, puliti, ci facciamo sentire alla grande, anche con potenze massissime, molto meno di quello che ti dice la legge. Sto usando neanche un watt e mezzo in questo momento, almeno a questo wattmetro segna neanche un watt e mezzo. Figurati. Per cui quando ci vogliamo stare più tranquilli, ce ne andiamo, magari su un canale non lo chiamo di scattare nessuno, usiamo mezzo watt, un watt, tanto ci sentiamo tutti, anche Salvatore sta uscendo con pochissimi watt. Adesso un po' scaldato se sono fatto. Allora, esattamente un watt e mezzo, un watt e mezzo anch'io sono, esatti. Tu sei 9 più 40 da me, Salvatore, io come ti sto arrivando? Che caspita, sei a 9,40 sei tu, Robe. Ma no, ma non, proprio non c'è. Poco fa ho guardato Luca, la televisione quando hai detto sono il massimo, adesso mi abbasso. La differenza era di 5 dB, pochissimo. Se sollevo già arrivo a fondo scala, ma non me ne ha fatto inutile, a me va benissimo così, anche come l'ho fatto. Adesso solo per curiosità, guarda quanto sto uscendo adesso. Mi sa, guarda che per il segnale, adesso sono 0,2 watt, meno di 0,2, sta ancora scendendo, adesso sono 0,100 milliwatt, mi ascolti ancora, Sabri? E ti ascolto ancora, come 5 arrivi. E sto uscendo con 100 milliwatt, se tu non ci credi faccio una fotografia e te lo faccio vedere. No, no, già ci credo, non ti preoccupare, il discorso è che c'ho il vicino di casa a 100 metri, che sicuramente, diciamo così, là, che arriva 9,15 a denuoto di 20 dB e arriva sulla dB aperto, fondo scala, mi fa parlare a maniletto là, e quindi ti fa, mi fa oscillare lo smitter quando parli. E tu Salvatore come mi ascolti così? Se arrivano, secondo quello che ho detto, mezzo watt e Santiago 5, Santiago 5. No, no, va benissimo, guardami, adesso lo porto anch'io allo stesso livello che mi hai detto tu, guarda, aspetta, allora, mi senti, Roberto, non so se sono anche a mezzo watt, non so se mi stai portando. Santiago sì. Capa, vedi, così i finali non si rovinano, aspetta, ecco qua, almeno i finali non si rovinano. A me arrivare a Santiago 9, ecco, quanto sono, adesso sono 200 milliwatt. No, devi aumentare un po' di più. Adesso sono, aspetta, sono tra 0,2 e 1 watt, sarà intorno ai 0,5 watt. Va bene così, sei leggermente più alto di 9, 9 qualche cosa. Tu sei quasi 9,10 adesso da me. 9,20, Roberto. Figurati, sto usando meno di mezzo watt, perché non ci arriva l'attaccare al mezzo watt. 9,20, non ci sono problemi. Va bene, dai. Allora, ma anche con Salvatore l'altra volta ce ne stavano andando, freddo, con pochissimi watt, dai, cosa ti affruti? Ci stiamo sentendo perfettamente, non sono strappati gli apparati, non ti crei problemi di dubbio a qualcuno, se qualcuno ce li ha. Una cosa, Salvatore, l'MC85, fallo camminare, perché la membrana dei microfoni, se tu non li fai usare, cioè se non li fai camminare, si blocca, è come un altoparlante, non ha più l'inerzia, alla fine non funziona come deve funzionare, per cui ogni tanto fallo camminare, visto che funziona anche bene, fallo andare anche quanto è 60. Sì, adesso mi ho staccato nel frattempo, ho staccato l'MC60, l'ho messo nello scaffale e l'ho messo stabile questo, adesso con un po' usiamo questo qua. Ok, ma Hai visto cosa il cane cosa ha fatto, no, stamattina, Robert? Se non mi immaginavo la cremando, quello mi pare ultimo. Ma poi dice, no, la macchina di me non si ammazza, dice che gli è passato sopra e l'ha smandato. Me l'ha cagato mio figlio, Non l'ho mai visto, guarda, te l'aveva preso lo spaghetto. Non zoccolo, io grazie a Dio non mi è mai successo, mi auguro non mi capiti mai, perché è una cosa brutta, poi se non te l'aspetti, cacchio, lì devi cercare di stare molto calmo, non toccare l'aperto e non toccare i freni, perché molte volte anche toccando i freni ti smanda la macchina e ti sbatte la guardia e ti fa anche male. Quello che gli ho detto, beh, meglio pazienza, purtroppo mi dispiace per il cane, perché è sempre, cioè, mi dispiace, però è andata così, è andata, anzi, poteva fare anche più danno, mi roba, è vero. Io l'ho più, subito in mezzo dalla macchina, però l'ha preso un po' lateralmente. E salve tu, vedi che stai chiamando. Che carriera? Non so, dice che lui se l'ha visto passare, dice che era un cane grosso, avesse qualche cane pastore, si è attraversato al superstrano verso San Giovanni, mentre c'era una macchina anche in fase di sorpasso, no? Quindi lui l'ha beccato con la parte di guida, e come si è sollevato l'altro gli ha passato sopra invece, poverino, mi dispiace per il cane, meno male che non mi ha fatto molto danno la macchina, vabbè, già è nuova con la macchina, quindi meglio così, vabbè, hai visto, non bisogna comprare le macchine nuove, vabbè. Hai fatto bene, non bisogna problemi, però un po' già siamo riusciti a attenuare le spese, là. Grazie a te, se no a attenuarle, meno male che ci sei tu che ci hai pensato. Non c'è problema per gli amici in quest'altro, non c'è problema, vediamo un pochettino su questo canale chi c'è che non ho capito ancora, c'è Saverio, io, Salvatore e poi chi è rimasto, avanti chi, se c'è ancora Luca o chi altro che sia. Sì, voi mi salvato tra la guardia. Che ore sono prima di un orologio, Robert, lo sai? Infatti adesso vado anche io, almeno 10 sono, almeno 4 iniziamo, sarà già iniziata, allora mi mangio qualche cosa e poi mi guardo la partita. Anch'io, 5 minuti andiamo a tirare oggi. Ma ho fatto un beffo oggi su Facebook, sarà scolpita ieri, Robert. Vabbè, dai, che cavolo. Gli ha rimesso Eder, lui già non c'era da mangiare il Milan, io vabbè simpatizzo ma non sono tifoso, mia figlia cacchio alla fine aspetto la televisione perché lei è proprio sfagattata, ha visto 3-0, aspetto tutto, basta, mi sono arrabbiata, non li voglio più vedere. E allora siamo in due, io sul 3-0 mi sono alzato e lo stesso me ne sono andato, l'ho capito quando ho preso il gol al primo minuto del secondo tempo, una squadra che deve rimontare ci fa fare un gol così, ma non, cioè quella è mancanza di concentrazione anche, Robe. Vabbè, purtroppo mancanza di esperienza, più di concentrazione, perché Molera non si può far fare o colpi di testa da una, non dico sia una netta, 1,75 m, 1,78 m sia coso, però confronto a gente di 1,90 m, è un nano lui, a quelli lì sono tutti anche 1,85 m in su, si è fatto anticipare in testa, non è possibile prendere un gol in anticipo così. Fatto sta che mi hanno fatto a beffa oggi, va? Vabbè. Ok, dai, riprendi il servizio che faccio un altro giro e poi anch'io me ne vado a vedere la partita, riprendi il servizio. Salve, Salvatore, ritorna un attimino all'AM, dai, così ci sentiamo, regoliamo i baracchini. Sì, ok, AM.